Civiltà. Le piazze. A. Ascolta il testo. Le piazze d'Italia sono generalmente di due tipi. La piazza religiosa, davanti a una chiesa, e la piazza di tipo civile e commerciale. Poi c'è un terzo tipo di piazza, quella del mercato. Ecco degli esempi di piazze medievali, rinascimentali e barocche.